Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, eccoci. Le 8 e 16 minuti, caro Oscar. Eccoci qua. Ci siamo. La morte è vicina. No, no, no, no. È l'ultima puntata, è l'ultima puntata insieme. Mamma mia, che inizio, che inizio. Ma sai, io sono realista, penso che bisogna dire le cose come stanno, non fingere di essere allegri. Io non sono allegro perché sono stato benissimo in questi due anni con te e quindi voglio dirlo e mi sembra giusto renderti questo tributo e ringraziare gli ascoltatori. Poi adesso parliamo del resto della puntata, però insomma, mentirei se dicessi che sono allegro. Non sono allegro e chiedo scusa per questo, però io penso che sia giusto renderti da parte mia il tributo, ecco, che secondo me è sentito vero, perché siamo come professionista e umanamente, questo è, punto, non dico altro, però chiaro, ti toccava, insomma, che te lo dicessi. Nella vita le cose cambiano, io lo so abbastanza bene, succedono, ci sono i cambiamenti e questa è una nuova sfida, insomma, che mi è stata chiesta alla radio. Diventerò grande ascoltatore tuo dalle 9 alle... E che farò con entusiasmo, insomma, con lo stesso entusiasmo con cui ho fatto questi due anni e sette anni di mattino, no, sì, gli ultimi due insieme. E quindi, come dire, a tutti quelli che dicono ma abbandonate, cambia, no, Oscar Giannino è qui e rimarrà tanto, al pomeriggio farai un'ora, no? Sì, io resto qua la mattina, faccio la radio, mi ha chiesto un'ora il pomeriggio invece della mezz'ora, resto sabato mattina, quindi... Quindi Oscar rimane, io rimango, mi sposto sullo orario alle 9, per cui nessuno tradisce Radio 24, tradisce Radio 24. Siamo qua. Obbediamo, come dicevamo. Obbedisco. E poi Oscar, vedi, mi viene già la tosse. E poi niente, io ascolterò i santi. Cosa farai? Mi manderai i santi via mail? Oltre ad ascoltarli in onda, ovviamente. Esattamente, io te li mando prima delle 9 che vegliano. E che il santo ce la mandi buona, insomma. E che il santo ce la mandi buona, ma ho pochi dubbi per quello che ti riguarda. Comunque, vedrai che sarà fantastico con i tuoi due nuovi compagni, ma comunque su, adesso bando a queste cose, sennò poi dicono che il vero professionista deve fare come se niente fosse. Certo, al pubblico però bisognava dirlo. Beh, chiaro, ci mancherebbe. Allora, oggi chi prega per noi, e anzi chi prego io loro, Nazario e Celso, chi sono? Sono martiri milanesi del sotto Diocleziano, e il culto è rimasto però nei secoli, anche se è un culto molto milanese. Poi altri due santi con culti locali, anche se molto radicati in altre parti d'Europa, per esempio San Sansone. San Sansone in realtà è un vescovo del V secolo del Galles, che è, però si specializza nell'essere evangelizzatore. All'epoca nell'area celtica era ancora fortissimo il paganesimo, evangelizzatore sia della Bretagna, in Normandia, in Francia, che di tutta poi la parte meridionale, l'Armorica si chiamava allora, di quella che oggi è il Regno Unito, la Gran Bretagna, e infatti il suo culto di qua e di là della Manica è ancora molto forte. Oppure San Botvido, che uno direbbe ma non l'ho mai sentito, infatti però è evangelizzatore della Svezia intorno al 1100. Ecco, quindi santi, diciamo, importanti per quello che hanno fatto, testimoniando con la loro vita. Quanto cosa capitava questi giorni? Capitavano delle vicende, in effetti, di discontinuità, tipo hanno tagliato la testa ai due fratelli Robespierre a Saint-Just nel 1794, tipo è cominciata la prima guerra mondiale tra Austria e Serbia esattamente 1914, tipo la Corte Costituzionale nel 1976 che dichiarò l'illegittimità del monopolio della RAI, anche se insomma da allora è stato un lungo cammino che non è stato proprio questo trionfo e basta del pluralismo che si potesse immaginare. E quanto poi agli auguri, io tra tutti coloro che fanno gli anni gli faccio soprattutto gli auguri a un maestro rispetto al quale mi metto in ginocchio, perché l'emozione che mi ha regalato in tutta la vita e che continuerà a regalarci, Riccardo Muti, perché oggi è il suo compleanno. Beh, e Riccardo Muti è, insomma, appartiene a una sfera superiore dell'interpretazione musicale. I suoi 20 anni, purtroppo finiti malamente per colpa della Scala, tra metà degli anni 80 e il 2005, la Scala, indimenticabili, ma tutte le orchestre che ha guidato, adesso è impegnato con la Chicago Symphony Orchestra ancora per qualche anno, prima con i Wiener e così via, sono state a detta dei componenti dei complessi orchestrali ogni volta un'evoluzione strepitosa grazie a lui, della loro capacità interpretativa. Viva la musica italiana e viva il genio di Riccardo Muti. Eh sì. Tanto alle 8 e 21 minuti diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Caro Oscar, qui noi parleremo un po' di immigrazione, le navi che vengono messe davanti alla Libia, non si capisce bene, cercheremo di capire bene per fare che cosa in concreto. Perché i libici hanno cambiato idea? No, ma perché insomma adesso abbiamo due ospiti che ci aiuteranno a capire che cosa la missione navale dell'Italia, che poi forse doveva essere, come scrive Michele Serra, una missione europea più che italiana. Comunque insomma la missione navale italiana in Libia. Certo, però questo si inserisce in tutto un discorso tra Italia e Francia che oggi esonda dai giornali, a partire dalla vicenda Fincantieri Estex con la nazionalizzazione che Macron ha deciso dei cantieri francesi, ma poi c'è Vivendi Telecom, c'è l'immigrazione, Macron ha detto faccio l'hotspot in Libia, poi ha detto non lo faccio più. Insomma, l'hanno paragonato al Fatto Quotidiano alla testata di Zidane a Materazzi, no? Ci prende a testate, sta scoppiando una guerra commerciale, finanziaria, economica, politica tra Italia e Francia. Non so. Comunque sono anche gli esordi molto velleitari e molto muscolari di una personalità che è riuscita a compiere una straordinaria rivoluzione a casa sua, costruendo un partito che non c'era e ottenendo un grande consenso dei francesi, ma che dimostra qualche eccesso di improvvisazione e di esperienza, perché per capirci, detta fuori dai denti, i cantieri francesi, cioè la Estex francese, che è reduce dal fallimento della Estex coreana, perché è dal tribunale fallimentare di Seoul che noi otteniamo Fincantieri ottiene, ecco, ha più bisogno degli italiani di quanto Fincantieri non abbia bisogno di lei, per essere chiari. Uno. Due, adesso sui giornali italiani esce che sarebbe il timore del trasferimento tecnologico ai cinesi la preoccupazione. Falso, perché che esca adesso questa cosa è una classica dimostrazione che sono più in difficoltà di quanto non dicano, perché ci sono dei vincoli precisi sull'evitare il trasferimento tecnologico alla Cina, per via di questo accordo che c'è tra CDP e finanza cinese. Ecco. Terzo, se poi la questione è la caratteristica militare, questo è il vero problema, gli sviluppi della progettazione di navi militari nel futuro, e quindi siccome questo è il vero punto, beh, per arrivarci a quel futuro i cantieri del nord di Saint-Nazaire devono riuscire ad arrivarci sulle proprie gambe. Le proprie gambe nella propria finanza come cantieri non ce l'hanno, quindi ci penserà il contribuente francese, però ecco, direi che la posizione francese è un pochino più deboluccia di quello che sembra. Il passo indietro sugli hotspot fatti con militari francesi ieri nel giro di 3 ore è un'altra dimostrazione. Io credo che l'Italia, a questo punto ti dirò, sì, capisco Michele Serra, la missione europea, però l'Italia ha bisogno di fare dei passi avanti nel prendersi sul campo questa leadership senza fare follie, ma del resto l'Italia è abbastanza aliena dall'utilizzo di strumenti militari e così via, quindi le nostre navi militari lì forse servono a far sbollire anche un po' la testa a chi sta perdendola, ecco. Sì. Tanto non si tratta di far guerre, però si tratta di affermare il fatto che, visto che l'ONU, questa leadership, da 3 anni ci prega di esercitarla, ecco, esercitarla con una presenza lì. Sarraj controlla a malapena un condominio, quindi conta poco che abbia cambiato idea. Sono un po' brutale nella sintesi, però vi garantisco che se leggete i rapporti e le analisi di chi se ne occupa professionalmente, ecco, i toni sono un po' questi. Sì. Tra l'altro, che cosa invece andremo a fare noi con le nostre navi al largo della Libia, questo dobbiamo cercare di capirlo. Lo facciamo con Jean-Pierre Darnis, che salutiamo, è direttore del programma Sicurezza e Difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Darnis, ben ritrovato. Grazie di essere con noi. Così come salutiamo l'ufficiale della Marina Militare in congedo, Fabio Caffio, esperto di diritto internazionale marittimo. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Caffio, le regole di ingaggio non ci sono, ma lei ci può aiutare a capire davvero, cioè in pratica, mettiamo i casi concreti, andiamo lì con le navi al largo delle coste libiche. Nelle acque libiche. Cosa possiamo fare? Cioè, arriva una nave di migranti e che succede tecnicamente? Ma ci sono già delle indiscrezioni. Intanto bisogna partire dal presupposto che noi siamo nelle acque territoriali di un paese sovrano. Si può dire quello che si vuole su Tripoli, sul fatto che esiste anche Tobruk, però il governo di accordo nazionale di al-Sarraj, che è appoggiato dalle Nazioni Unite, è quello di un paese sovrano e che quindi esercita giurisdizione nei suoi spazi marittimi, nelle acque territoriali. Quindi noi non possiamo fare a nostro piacimento, come avveniva per esempio in Somalia, peraltro anche sulla base di risoluzione delle Nazioni Unite, usando la forza, ma dovremmo agire in supporto delle autorità libiche. Quindi sicuramente, ci sono già indiscrezioni in questo senso, ai libici spetterà sia salvare i migranti e trasportarli nei loro centri di accoglienza, sia contrastare eventuali azioni di forza degli scafisti. Fermo restando tuttavia che le navi italiane assicureranno la cornice di sicurezza necessaria, quindi esercitando il diritto di legittima difesa sia verso se stesse, sia come sto forma probabilmente di extended self defense, cioè difesa legittima estesa, anche allargata, anche in favore dei libici. Quello che io escluderei è un nostro coinvolgimento diretto nelle operazioni di soccorso e nel trasporto dei migranti direttamente in Libia. Però non ci sono state tanti casi di navi intercettate entro le acque territoriali libiche e riportate in Libia, cioè sono soprattutto... Non abbiamo dei dati ufficiali, però ci sono già. Come anche abbiamo delle notizie su azioni di forza esercitate dagli scafisti nei confronti della Guardia Costiera Libica proprio per contrastare queste azioni di salvataggio forzato. Quindi, tra virgolette, non è comunque definibile come il blocco navale, come quando non è un blocco navale. Mi permetta, non c'è parola più impropria che il termine blocco. Viene usato a sproposito spessissimo sia davanti alle acque territoriali italiane sia davanti alle acque territoriali libiche. Allora, il blocco è solo quello che ha fatto per esempio Israele davanti a Gaza per impedire l'arrivo delle navi turche che portavano aiuti a Gaza, ai palestinesi. Lì c'era un conflitto armato e quindi il blocco è una misura di guerra, tra virgolette, che si attua in un conflitto armato e che comporta l'uso della forza per impedire che delle navi entrino. Ecco, questo è il blocco, ma non mi pare che ci siano queste condizioni nel caso della Libia, nel caso di migranti. Quindi il blocco è una parola che si usa in senso figurato, ma in senso tecnico porta fuori strada, è improprio. Beh, insomma, ci ha già detto Oscar tante cose interessanti e tanti chiarimenti concreti. Di chi professionalmente ne sa. Esatto. Jean-Pierre Darny, qui c'è la questione anche francese, no? Perché ieri Macron, tra le varie cose, ha detto facciamo gli hotspot in Libia, poi da parte dell'Eliseo c'è stato un dietro front. Insomma, dei movimenti anche francesi che... Io, se posso usare una battuta, credo che sia una battuta felice in questo momento. Io non sono Emmanuel Macron, la penso in modo diverso. Una volta fatta questa battuta, non lo so, Macron ha fatto una battuta a lui un po' affrettata. Ha fatto una battuta che qualche politico italiano in un'altra stagione o in altri momenti avrebbe potuto fare, quelle soluzioni semplicistiche nel quale disse: ah, facciamo gli hotspot. Poi subito marcia indietro dei ministri, del ministro tra l'altro ieri degli affari europei che era presente in Italia e che ha detto insomma dobbiamo esaminarne la legalità, le condizioni di sicurezza e far sì anche che sia una cosa che giuridicamente e nei modi concreti sia fattibile. Quindi ecco, Macron in questo momento spinge sull'acceleratore su tante partite. È certamente un giovane leader molto scaltro, politicamente, tra l'altro la vicenda ISTX in cantiere dimostra la sua scaltrezza su un'agenda di politica interna, come ha ruffianato i sindacati negando un accordo internazionale, e va bene. Però questa velocità fa sì che anche con l'Italia ultimamente, tra l'altro c'è un dialogo anche difficile, ma c'è un dialogo molto fitto con l'Italia e la Francia sulla Libia, però volendo accelerare magari insomma sbanda un po'. Insomma, come ci diceva Oscar, è in una fase un po' così, insomma, però non è un grosso problema se questo poi, tra l'altro, se l'Italia subito gli dice senti, ma insomma stai attento, insomma qua questo c'è sulla Libia, secondo me in questo momento, malgrado le insofferenze italiane che si possono capire per un passato storico, una visione italiana postcoloniale, insomma ipersensibile, ma c'è una dialettica molto forte fra Roma e Parigi, credo che sia un bene. No, ma però voglio dire, al di là della, scusami, Jean-Pierre, al di là del passato coloniale, qui non c'entra niente la sensibilità del nervo scoperto della vecchia, il vecchio paese colonialista. Resta il fatto che grazie al disastro franco-britannico, poi americano, e alla incapacità italiana del 2011 sulla crisi libica, noi con i nostri porti siamo l'unico canale rimasto aperto per il flusso di profughi. Quindi diciamo, il titolo italiano per esercitare un'azione di coordinamento internazionale che in questi tre anni le Nazioni Unite e gli Stati Uniti ripetevano all'Italia, che l'Italia ha avuto, secondo me, il torto di non esercitare in maniera più energica, è incardinato su un dato di fatto politico: il flusso dei migranti e il fatto che siamo frontiera esterna europea, no? Perché altrimenti sembra che sia i nervi scoperti tra il grande paese, un grande impero coloniale, e noi i fascistelli. No, assolutamente no. No, un attimo. I passati coloniali esistono per la Francia e per l'Italia, e purtroppo sono brutti e purtroppo lo lasciano dei nervi scoperti sempre. Questo l'ho detto e lo mantengo. Una volta detto questo, c'è un'enorme convergenza, perché anche in Francia l'analisi del 2011 è l'analisi di un periodo negativo, quindi se vogliamo tornare sulle ragioni mai capite di quell'intervento francese possiamo farlo, ma comunque è negativo. Adesso le priorità quali sono? Lotta contro i traffici, che significa lotta contro il terrorismo, e lotta contro l'immigrazione illegale e i flussi migratori. Questi tre fenomeni sono completamente connessi, qualsiasi militare, qualsiasi osservatore lo dettaglia, okay. E su quella c'è totale convergenza fra Francia e Italia nell'analisi delle minacce, ma anche su Germania, Spagna, insomma tutti la pensano così. Ok, ci sono poi degli agenda mai capiti, delle accelerazioni, dell'interpretazione, va bene, però ci sono anche spazi di convergenza, ad esempio la Francia da vari anni, non so, chiede all'Italia di intervenire con lei in Niger, non dico che sia una cosa giusta, sì, però comunque non è una visione esclusiva di un ruolo chiuso, ecco, ci sono grossi spazi. Però ha citato proprio il Niger, dove le accuse per esempio all'esercito francese, visto che hanno un controllo militare, di chiudere ben più di un occhio alle carovane dei migranti che proprio passano da lì, a volte anche con testimonianze fotografiche passano. Questa è una bufala giornalistica. Beh sì, perché insomma a Madama nel nord del Niger ci sono, non so, 100-200 uomini francesi che fanno contrasto al terrorismo, che possono controllare tutta la frontiera e tutte le zone, insomma veramente. E tra l'altro lì i giornalisti italiani dovrebbero anche, come dire, sentire cose più fine, dove la Francia non riesce a chiudere questa frontiera, ma sarebbe ben felice di avere altri paesi, altre forze che contribuirebbero a presidiare ancora di più la sicurezza in quella zona. Esatto, come l'Italia sarebbe molto più contenta di avere una collaborazione sulla redistribuzione, cioè diciamo l'abbiamo fatto tante volte il discorso di un'Europa che non c'è, diciamo, a 360 gradi, no? Un'Europa non collaborativa. Comunque sulla Libia, malgrado il momento un po' incasinato, ci sono veri spazi di collaborazione ulteriore, e io penso che anche questa iniziativa italiana, o direi libico-italiana, di presenza nelle acque marittime italiane, libiche, va in questo senso. Sì. Ma, tra l'altro, Caffio, ovviamente a bordo delle navi la giurisdizione resta italiana, questo è un punto, sì, è un punto chiaro. Questo è un punto ineludibile, un principio del diritto internazionale, le navi da guerra godono dell'immunità totale, ecco, dovunque si trovi. Resta da precisare, pare oggi su Repubblica si racconta un punto delicato, e cioè dovessero salvare dei migranti, dove li si porta? Perché ci parla di centri controllati dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, in Libia questo... Ma, guardi, vorrei ricordare che il 2 febbraio il nostro premier Gentiloni ha firmato un memorandum con il premier libico al-Sarraj a Roma proprio sul sostegno e l'assistenza logistica riguardanti anche i centri di accoglienza sanitaria, quindi letteralmente sono riportati in questo memorandum come centri di accoglienza sanitaria. Ora, se sono denominati in questo modo è evidente che c'è. Tutto questo presuppone un coinvolgimento dell'Alto Commissario dei Rifugiati, UNHCR, oppure dell'Organizzazione Internazionale dei Migranti. Ma presuppone anche un altro requisito, cioè la Libia deve decidersi a ratificare la Convenzione di Ginevra del 1951. E se no, l'Alto Commissario dei Rifugiati non può entrare, come dire, non è riconosciuto. Ma no, questo non lo so, ma penso che sia fattibile un accordo tra le autorità libiche e l'Alto Commissario dei rifugiati, certo. Che peraltro addirittura collaborava già con Gheddafi, mi risulta, nel 2008. Quindi vanno messi a punto dei prerequisiti, diciamo, senza i quali non è possibile che noi collaboriamo per il riaccompagnamento a terra delle persone salvate. Vorrei ricordare che nelle acque territoriali lo Stato costiero ha la responsabilità sia del salvataggio sia dell'impedimento della navigazione irregolare, quindi qui sono barconi che non possono navigare, che mettono a repentaglio la vita delle persone trasportate, quindi il coinvolgimento delle autorità locali è duplice. Da un lato la stessa salvaguardia della sicurezza marittima, dall'altro quello della vita delle persone. E che qualche falla c'è, Oscar, qualche barcone passa, ecco, diciamo che gli stati costieri a volte allargano le maglie, cioè lasciano partire le navi per una loro scelta. Questo è già avvenuto in passato, adesso non voglio citare casi specifici, ma è successo in Adriatico, improvvisamente nel 91 ci siamo visti arrivare grosse navi con decine di migliaia di persone, è successo dalle Mar di Levante quando ci sono arrivate delle navi con i curdi. Ecco, tutto questo non avviene a caso, avviene perché si allentano la vigilanza, cioè ogni stato costiero deve impedire questi fenomeni. Però qui, e ora ci siamo. Oscar, tu dicevi sempre non possiamo permetterci un'estate, e l'estate ormai un agosto, soprattutto un mese di agosto, senza fare nulla e poi ritrovarci con continui arrivi. Ha proposto una bella serie di iniziative. È questa la soluzione? Intanto io sono d'accordo con l'ammiraglio, e questa è quella realisticamente perseguibile per come si sono evoluti il quadro delle diverse concomitanti pressioni e sovranità, e io direi che va imboccata. Mi pare che il governo abbia fatto capire che il passaggio di martedì in Parlamento è deciso a imboccarla, per dare l'idea, non solo nel merito della missione e nel rispetto delle competenze, che appunto questo ruolo di leadership, della presenza internazionale per la stabilizzazione del paese, oltre che per risolvere il problema dei profughi, l'Italia questa volta è seriamente intenzionata a esercitarlo. Invece, se mi permette, ragionando in termini di interesse nazionale, qui veramente l'abbiamo centrato, cioè uno dei pochi casi relativi all'immigrazione via mare in cui la missione libica corrisponde all'interesse nazionale. Invece, professor Darnì, qua oggi la stampa racconta di tentativi di migranti di passare la frontiera Italia-Francia anche attraversando il Fréjus, 13 chilometri nel buio, rischiando la morte, e appena arrivano da Bardonecchia a Modan vengono presi dalla polizia e rispediti al mittente. Su questo fronte proprio Macron, e sull'idea dei migranti economici, non vuole cedere di un millimetro, no? Ma questo Macron su quello non è nuovo, perché questa situazione purtroppo va avanti da anni. Tra l'altro con alcuni miei colleghi dell'Università di Nizza che sono stati condannati perché hanno trasportato dei migranti portandoli alla stazione di treno, insomma, un'azione di solidarietà individuale. Una volta detto questo, lì La situazione è chiarissima e tra l'altro gli italiani la capiscono perché non c'è problema. L'est sud-est della Francia è un territorio elettorale dove l'estrema destra, il Fronte Nazionale, è radicatissimo ed è molto molto forte. Quindi c'è un discorso lì populista di estrema destra violentemente anti-immigrazione. E quindi la chiusura della frontiera Ventimiglia e le politiche un po' troppo visive ai confronti di questa chiusura vogliono dare delle risposte a questa parte politica del paese. Non dimentichiamo il numero di voti che ha preso Marine Le Pen nell'ultima elezione, e non è che queste problematiche siano sparite così. È chiaro. È una cosa che io non condivido, è una cosa triste, però una cosa di politica realista, vera. Questo sì. Allora noi ringraziamo Jean-Pierre Darny e ringraziamo l'ammiraglio Fabio Caffio che ci hanno aiutato a capire davvero cosa ci si prospetta in questo agosto. Vediamo ovviamente come verrà implementato questo accordo, soprattutto navale, con la Libia. Vediamo soprattutto l'intemperanza a Parigi con quanti altri guai provoca. Io non sono un grande fan di Macron, però credo che l'approssimazione possa fare guai anche nelle gambe e nelle teste dei migliori, ecco, e credo che in questi giorni ci sia stata troppa approssimazione. Sì. Dai, andiamo un attimo in pubblicità, poi gli ascoltatori all'800240024, non solo su questo tema, su tutti i temi, quelli che volete. Noi siamo aperti. No, però se hanno appena litigato con la moglie non telefono. No, vabbè. Perché no? Dai, magari quello. Magari vi mettiamo, diciamo, a dire anche due paroline quello. Giuste. Beh, forse hai ragione. Mettere pace. Vabbè. Tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Le 8:45 minuti, ci siamo. Oscar, ci sono gli ascoltatori, guarda quanti. C'è Sandro dalla provincia di Piacenza, buongiorno. Sandro, è caduta la linea, vedi quanti? Pronto? No, eccoci, Sandro, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a voi. Eccoci. Volevo farvi i miei complimenti perché vi ammiro a tutti e due. Grazie molto. Non so se vi ricordate, io sono quello dei movimenti per la Cayenna. Io volevo fare un appello agli italiani. Sì. Ecco, sì. Mi fa piacere che vi ricordate. Un appello agli italiani, non comprate. Io sono anni che non compro francese, perché in altre trasmissioni che vi ho chiamato, io ho sempre detto che i francesi sono dei nazionalisti allucinanti. Quindi non comprare la Parmalat, di non andare nel Leroy Merlin, Carrefour. Non comprare più niente, boicottare i prodotti francesi. Vabbè. Va bene. Cioè, questa è la ricetta. Sì, la ricetta. Cayenna, quindi la Cayenna. Io non credo molto che dal male stiamo rispondendo al male, nel senso che quella è una catena che non si ferma più, capisci? No, ma anche perché ricordate l'infelice uscita del ministro francese contro la Nutella. Esatto. Dai, che facciamo, Sandro? Loro no, nulla, Nutella, noi ma non Camembert. Per essere buoni, poi è una questione di convenienza. Non conviene a nessuno adottare questa logica, però certe volte ti strappano la voglia di pensarlo. Ecco, sì, questo è il capito, punto. Cioè, che siano nazionalistelli, è un po' vero. Ho capito. La loro forza, la loro Ma si mangi il camembert comunque. Si mangi il camembert comunque. D'accordo. Pur rimanendo dell'idea che sono nazionalisti. Esatto. Ecco, quale nesso dobbiamo noi introdurre tra il fatto che sono nazionalisti, non ci dobbiamo dimenticare, e il privarsi del camembert? Bravo. Antonio da Vicenza, buongiorno. Comunque sì, bello, buongiorno. Dalla Cayenne al boicottaggio. Beh, questa era più banale, il boicottaggio, ma la Cayenne. La Cayenne era forte. Antonio Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, voglio essere breve e conciso, cioè la colpa di tutta questa invasione di clandestini dipende solamente dall'asse Sarkozy-Merkel-Obama. Praticamente tutti questi clandestini o migranti dovrebbero essere tutti collocati Francia, Germania e America, non qua in Italia. L'Italia non c'entra niente. Berlusconi. Addirittura America. Sì, anche in America. Anche Berlusconi aveva detto no ai Miraz, no ai Gheddafi. Cosa hanno fatto? Tac, subito, francesi piano a morte con noi per il nostro rapporto di amicizia con la Libia, vuole fregarci anche la Libia, ok, però vi prendete tutte le vostre colonie in Francia, in Germania e in America. Vabbè, Antonio, in America magari la vedo anche un po' più dura, però è lunga, però lei dice, vabbè, ma vedi, caro Oscar, che i nostri ascoltatori vivono questa rivalità la vivono. C'è sempre, c'è sempre la stata vivono. Tra italiani. Ma però, ripeto, di là della rivalità, che in realtà se è istintiva nella storia, solo con l'istinto si possono fare guai, ripeto, bisogna molto ragionare. Il fatto è che l'intervento franco voluto dalla Francia, che poi prima si tirò dietro la Gran Bretagna e poi divenne con gli Stati Uniti, ha prodotto un disastro oggettivo, cioè ha reso la Libia il bastione dell'islamismo e l'ha regalata ai trafficanti di carne umana. Ecco, questo è sotto gli occhi di tutti. E io speravo che Macron non fosse un Sarkozy al cubo, perché sennò gli errori si ripetono. C'è Antonio, Fabio da Roma. Antonio, l'abbiamo appena sentito e lo ringraziamo. Fabio da Roma, buongiorno. Buongiorno Giannino e buongiorno Milan. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché mi fate compagnia tutte le mattine e non so con quale criterio si facciano i palinsesti e stroncare una coppia giornalistica perfetta, no, a mio parere. Che stroncare? Allora, no, dai. Premetto, dividere non mi piace, siete veramente due bravissimi giornalisti non piegati a nessuno e in Italia è molto difficile trovarli. E premetto una cosa, voglio parlare di immigrazione, sono un ex appartenente alle forze dell'ordine, sì, e durante il governo Berlusconi mi sono occupato di immigrazione, mm-hmm, sono stato sia a Lampedusa che in Libia e quindi parlo per cognizione, cioè nel senso che conosco bene il... Mi dispiace che si intervistano sempre gli ammiragli e i generali e mai chi effettivamente sta sul campo e vive ogni giorno il dramma di questi poveri. E cosa ci può dire? Lei però da ascoltatore, che ci può dire? Allora, guardi, il problema, noi ci riempiamo sempre la bocca di questa Libia, Libia, Libia. Il problema vero è il Niger. Perché la stragrande maggioranza passa di da tutti lì, i migranti passano tutti da lì. Io mi ricordo che facevamo le pattuglie congiunte con sia i libici che con i nigerini. E assicuro che è per volontà di quei governi che lucrano sì, sì, assolutissimamente sui passaggi di queste bande. Lei deve sapere, dovete sapere che la Libia è un ammasso di tribù che gestisce, sì, le parlo, territori di qualche chilometro quadrato. Sì, sì. Lei si figuri che Gheddafi, al quale abbiamo dato miliardi, miliardi e miliardi di soldi per cercare di stroncare questo traffico, e anche lui comunque lucrava, perché comunque era l'unico che riusciva a tenere a bada, mm-hmm, tutta quella massa di tribù che esistono in Libia. Si figuri adesso con due governi di cui, come ha detto bene Giannino prima, Ferrai forse ne è un condominio ma di piccole dimensioni, esatto, da ministra, mentre dalla parte di Tobruk e tutta la Cirenaica è praticamente associata in modo completo con l'ISIS, con l'altro generale che gestisce una parte dell'esercito. Cioè, si figuri se noi possiamo impedire il traffico. Chiediamoci solo una cosa: prima l'ammiraglio diceva ma noi nel 91 abbiamo avuto l'invasione da parte degli albanesi. Voglio ricordare all'ammiraglio che quando partirono dall'Albania furono 4 o 5 navi, ogni nave trasportava 15.000 in media albanesi, ok? Adesso invece questi gommoni, c'è una produzione di imbarcazioni di gommoni e basterebbe solamente stroncare quel tipo di mercato per bloccare il traffico. Fabio, no, ma lei ci ha dato un'analisi, come dire, lucidissima anche di chi l'ha vissuta sul campo. Esatto, anche se, però è chiaro che, come dire, il problema è il Niger, si è raccontato anche in vari reportage giornalistici, passano da lì le carovane che partono da più a sud e perché bisogna passare dal Niger per andare in Libia e poi dalle coste. Come fare? Danny ci ha detto che i francesi che sono lì militarmente, anche se non bastano, e allora benissimo, mettiamo in piedi una missione internazionale non francese coloniale in quei paesi, visto che sono i nigeriani la comunità più numerosa di quelli che sbarcano in questo 2017-2016 nel nostro paese, a conferma di quello che diceva appunto il nostro ascoltatore. C'è Virgilio da Ravenna. Virgilio, buongiorno. Buongiorno a entrambi i conduttori. Eccoci, grazie. Io ho due argomentini veloci. Uno, allora, le navi della nostra Marina Militare che tonnellaggio avranno al di fuori delle coste libiche? Perché purtroppo può accadere qualche incidente, voluto o no. Se andiamo con una motovedette basta poco per fare dei danni sia al mezzo che a chi è a bordo. se andiamo con un tonnellaggio superiore abbiamo qualche limite di difesa superiore pare, in caso di attacco. Sì, sì. Probabilmente ci sarà la San Marco, come? E la fregata con la Bergamini, esatto. È un pattugliatore, il quindi Cassiopea, con è una corvetta. Tutte le dimensioni, quindi, per così esatto, dire. Andiamo... è un gruppo polivalente ma molto specializzato. E forse anche uno o due sottomarini e mezzi aerei, quindi Virgilio, per rispondere, abbiamo militarmente... una panoplia. Insomma, c'è un po' di tutto. Antonio da Milano, buongiorno. È caduta la linea. Vabbè, a Virgilio da Ravenna, al di là del tonnellaggio delle navi, non è che sono espertissimo, ma insomma è soddisfatto della risposta... Cioè, il tonnellaggio non è quel punto. Il problema è che una squadra completa, da una grande piattaforma di centrocomando fino a unità piccole, sia pur d'altura. Quindi siamo in grado di coordinare ed effettuare tutti i servizi necessari di contrasto. E anche il primo, voglio dirlo, mostrare la bandiera, dire il coordinamento è nostro, cari francesi. Ma cari libici anche, possiamo dirlo. Ecco, cari libici, credo che anche, siccome... Il passo falso di Macron è anche aver annunciato al mondo che l'incontro tra Haftar e Sarraj è la risoluzione del problema libico. No, perché bisogna ricordare al mondo che senza i 50 capi di tribù e fazioni, quelli riuniti da Minniti al Viminale, anche l'incontro francese è pura fuffa. E quindi anche su quello, visto che i servizi italiani e le forze italiane di cooperazione dei servizi internazionali hanno lavorato molto bene, perché sennò, ripeto, era la prima volta che quei 50 capi fazione venivano riuniti, e per di più a Roma, ecco, il bravo Minniti adesso dovrà ricordare che senza quella roba lì l'incontro di Haftar a Sarraj è l'ennesimo capitolo di annunci a cui non seguono i fatti. Vabbè, insomma, ci stai dicendo che ci prende a testate, ma andrebbe solo espulso, e il campionato del mondo lo vinciamo noi, no? Il campionato del mondo sai che io sono un uomo modesto su questo, però dico che siamo in campo forse con più forza di quanto in questo momento, per autocriticarci, sport nazionale in cui anch'io partecipo, però io mi sforzo di vedere le cose oggettive. Io critico molto quando ci sono cose oggettive che non mi convincono. Credo che su questa vicenda libica abbiamo sbagliato per 3 anni a stare troppo con le penne sotto altri problemi, ma adesso abbiamo qualche chance in più di quanto non sembra rispetto alla Francia. C'è Giuseppe da Arezzo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, bentrovati. Grazie. Allora, prima di tutto complimenti e saluti. Passato un bel periodo di ferie. Ecco, benissimo. Va bene. Grazie. Scusi l'ansia. Senta, volevo dire una cosa. I giudici, specialmente alcuni, sono figli del 68, cioè espropri proletari, P38, la polizia è fascista. È logico che con questa mentalità ancora si va avanti. Ma che c'entra... No, dicevo, questo per quanto riguarda i giudici che sì. Mi sta dicendo che cioè in questi giorni abbiamo parlato che i giudici una volta fanno una cosa, una volta fanno quell'altra, liberano gente che dovrebbe essere in carcere, non seguono vabbè. Magari altre cose. Lei dice sono i frutti del 68, vabbè, un po', non dico fuori sacco, cioè un po' in ritardo di qualche giorno rispetto magari a qualche tema che abbiamo affrontato, però non voglio poi entrare nel merito della dichiarazione. L'opinione di Giuseppe d'Arezzo. Andiamo a Roberto. Roberto da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Ci sono. Ecco, noi, io volevo dire qualcosa sui francesi, sull'ennesimo atto di prepotenza che stiamo subendo stupinamente, purtroppo. Sì. E ora che si faccia qualcosa. Che cosa? Beh, io non sono probabilmente alla testa di stabilirlo, ma faccio un esempio. Che ne so, il governo italiano annuncia che nazionalizzerà Telecom Italia, faccio per dire, no? Così. Oscar. Va bene, tanto la privatizzazione che è stata fatta di Telecom non è che ha portato quei grandi vantaggi, per cui una rinazionalizzazione peggio di così non farà, secondo me, insomma, di quello che è stato. Vabbè. O qualcos'altro, così cominciamo a liberarci così di come si chiama il Breton e l'Ilf. Ho capito, però sai, con questa logica, ripeto, Macron, ci sono i grandi conflitti mondiali. Mi hai messo un dito nell'occhio, ti do un calcio agli zebedei. Dice, ma poi ci sono capitate centinaia di milioni di vittime. Accidenti, averci pensato prima. Ecco. Comunque, non è la soluzione prospettata da Oscar Giannino. Invece noi dopo le 9, dopo il giornale radio, torneremo parleremo un po', ma non solo di sport, no, ma del trionfo di Federica Pellegrini. Oh, francesi, voi non ce l'avete la Pellegrini. La vostra Manadou è finita da quel dì. È finita. È finita da quel du. Dudu. No, non c'entra. Passava la pazzia prima delle vacanze. No, parleremo di Federica Pellegrini, del nuoto, della scherma, icona italiana. Esatto. C'è un'Italia che non abbassa la testa, che produce nuovi talenti e che ottiene grande risultato. E se la abbassa è per fendere l'acqua e andare a vincere. Vabbè, ho capito. Va bene, dai, Giovanni. Il sole, il sole. Sì. Alino e Giannino, e come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi... Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! 24 mattino, attenti a noi due. Federica all'attacco disperato, Federica che cerca di recuperare su Katie Ledecky e su Emma McKeown, adesso comincia ad aumentare però la progressione dell'azzurra, arriva a grandissima velocità Federica Pellegrini. Sentila, sentila, sembra vederla la velocità. Oscar in prima posizione, si sta per realizzare qualcosa di assurdo, qualcosa di incredibile, qualcosa di impensabile. 1,54,73 e medaglia d'oro per Federica Pellegrini. La vittoria di Federica Pellegrini, caro Oscar. Siamo qua alle 9-7 minuti, impressionante. Ultima vasca, comunque impressionante, davvero impressionante, sì. Perché impressionante. la condizione in cui c'era l'ultima virata, uno dava per scontato, vabbè. Sì. Tra l'altro, vogliamo sentire Federica Pellegrini ai microfoni del nostro Dario Ricci, che tra l'altro è collegato con noi. Dario, ciao, ovviamente. Benvenuto, buongiorno, qui ragazzi, sentiamo la divina. Quando hai capito che si poteva vincere? No, mai. Io neanche adesso sto credendo che ho vinto il 200 stile libero e non avrei mai scommesso sulla mia vittoria, onestamente. No, mi sono tuffata per cercare la mia settima medaglia in questa gara. Non ci voglio credere, ragazzi, cioè. Capito, non ci voglio credere. Poi, insomma, qui stiamo a parlare non tanto di sport o non solo di sport, caro Oscar. Volevo raccontare perché, cercare di capire, ci sono discipline come quella del nuoto, come quella della scherma, dove certo la tradizione ben consolidata ci porta a campioni continui. Però una tradizione... poi c'è una continuità che non è solo fatta di talenti individuali, dedizione assoluta, perché lo sport per arrivare a questi livelli, a questi risultati, significa dedizione di vita, Cioè, come no. Ecco, quindi il talento bene, ma il talento se non lo coltivi ogni giorno massacrandoti non basta. No, questo per rispondere, infatti, perché siccome oggi alcuni giornali raccontano che, pensate, Federica Pellegrini è stata, siccome c'è l'invidia, l'odio sociale, è stata attaccata su Facebook, sì, anche da alcune donne, a dire non sei abbastanza donna, non sai cosa vuol dire il sacrificio vero, sì, di essere donna e madre. C'è una che non sa cos'è il sacrificio, una che si fa, come dice lei, un culo così. No, ma è vero, perché no. Cioè, voglio dire, non bisogna essere molto versati, basta avere un'idea di che cos'è rimanere a quei livelli per tutti questi anni. Ripeto, cioè lei è proprio nel 2005, se non 2017. Allora, c'è un dispiego di energie che si innesta su un grande talento, però poi arriva la domanda finale, perché questo è, per così dire, il presupposto. Però se noi andiamo a vedere nel tempo, ci sono effettivamente delle discipline sportive alle quali l'Italia, la tradizione la tiene alta e anzi stupisce perché riesce a rinverdirla con più forza. Guarda che la scherma è così, sia nelle discipline individuali che nelle squadre maschili e femminili. Beh, devo dire, è straordinario. Ma nel nuoto è così, come si vede, al di là dell'individualità, se vediamo la quantità di medaglie prese in queste mondiali, c'è una continuità rafforzata, no? Perché, la domanda è, solo un caso che le altre discipline, l'atletica leggera, ci siano dei bassi che durano decenni, che significano chiaramente che c'è stato un enorme problema, forse anche gestionale, organizzativo? Ecco, la domanda è un po' questa. La domanda è questa. Oltre al nostro Dario Ricci, ci aiuterà a rispondere un grandissimo campione del nuoto, Domenico Fioravanti. Grazie di essere con noi, Domenico. Due ori, rana Sydney 2000, quindi, e poi vabbè, cito solo i due ori olimpici, esatto. Una bella vita di successo. Tralascio gli europei, i campionati italiani, eccetera. Domenico, come rispondiamo intanto a quello che dice Oscar Giannino? Cioè, perché nel nuoto, nel suo caso ovviamente, il nuoto, c'è questa tradizione che si consolida e anzi forniamo campioni sempre di più andando avanti negli anni? Ma io credo che, se torniamo un po' indietro, da Barcellona 92 in poi, soprattutto con le Olimpiadi di Sydney nel 2000, nella quale abbiamo vinto anche in quell'occasione diverse medaglie, è stata l'edizione dei Giochi Olimpici con più medaglie per il nuoto italiano. E quindi credo che da quel momento in poi ci sia stato un cambio di rotta anche soprattutto mentale da parte degli atleti. Cioè, io credo che prima non eravamo molto abituati a vincere, quindi partivamo, se vogliamo, già un po' sconfitti prima ancora di scendere in acqua. E poi le nuove generazioni hanno visto che comunque anche gli italiani in acqua vincevano e non so, sono di quest'idea che qualcosa a livello mentale si sia aperto e che quindi abbia dato lo stimolo poi per crescere. E i ragazzi di oggi sono un po' anche questo. Anche questo. Io non lo so, un ascoltatore ci fa questa considerazione che giriamo al nostro Dario Ricci. Diciamo sport minori ma atleti superiori. A parte che di sport minore non ci sono discipline minori. No, perché, insomma, che poi nuoto non mi pare così. Esatto. Ma neanche la scherma, a dire la verità. Esatto. Ma atleti superiori. No, ma magari, non so, gli sport non così diffusi come il calcio o il basket. Paghiamo ma atleti prezzo. Superiori. Non so, Dario, è una considerazione che ti giriamo. È davvero così tu che le discipline le segui un po' tutte? Sicuramente vale di base il discorso che accennava prima Oscar. Il talento a quel livello per i campioni di cui stiamo parlando, cioè vuol dire anche per quello che arriva ottavo nella finale o sedicesimo nella semifinale, è la condizio sine qua non, cioè nel senso che il talento è la base e su quello poi si costruisce. E credetemi, so che risulterà impopolare, anche i calciatori se lo fanno il cosiddetto mazzo. Con altri riscontri, perché poi c'è un mercato, c'è un'attenzione, c'è una popolarità. Certo, noi da quel punto di vista viviamo anche per gli altri sport delle situazioni particolari, ci sono delle enclave. Ieri proprio parlavo con dei colleghi, il miracolo della nostra pallanuoto, vi faccio l'esempio, perché qui nei Balcani, qui in Ungheria dove non c'è il mare, la pallanuoto è sport nazionale, è molto più del calcio, ma tutti gli sport acquatici, Domenico può confermarlo. Noi siamo nell'eccellenza da sempre nella pallanuoto, vivendo su alcune enclave come quella napoletana, quella ligure. Quello è un miracolo, è una tradizione. Diverso ma anche simile il caso della scherma, così come per esempio per quanto riguarda il nuoto, devo dirvi che in questi mondiali che straordinari, sono un po' preoccupato perché abbiamo pochi finalisti. Se vedete, le nostre medaglie sono Federica, Detti, la Quadarella, bellissima, e Paltrinieri, e va benissimo. Però la salute del movimento, e dico anche questa è una cosa un po' impopolare, è data anche da quanti poi arrivano nelle finali, perché ti dà l'idea. Ad esempio ci sono tantissimi giapponesi perché stanno lavorando benissimo per Tokyo 2020. Insomma, il ragionamento è sempre molto, molto articolato e va fatto su più livelli. Non tutto è oro quello che luccica. Questo sì. È oro quello della Pellegrini. Su questo siamo. Sì, su questo sì, siamo. Quello di Detti, che non è che sì, certo, piano. Certo, anche quello di Detti siamo certi. Però vorrei, Domenico Fioravanti, cosa si può rispondere a chi accusa, perché vabbè, cioè, ci sta di tutto, no? Ma chi dice a Federica Pellegrini o a Detti o magari anche a Domenico Fioravanti, ma insomma, che fondo che sacrificio è? Ci vuole spiegare cosa significa il sacrificio per arrivare a quei livelli, proprio anche monetizzandolo in termini di ore di acqua, di ore di piscina, di ore di anche di solitudine, perché il nuoto, l'allenamento è uno sport anche di solitudine. Domenico. Ma anzitutto vorrei dire che sono pienamente d'accordo con ciò che è stato appena detto. Scusate, ma essendo in macchina non ho capito bene chi era. Dario Ricci, il nostro. Perfettamente d'accordo con ciò che ha detto Dario. Il movimento italiano, al di là dei singoli, è un po' in sofferenza, perché a livello giovanile noi ai campionati europei giovanili vinciamo sempre tutto, ma poi di questi ragazzi quanti ne arrivano alla categoria superiore, quindi alla nazionale superiore? Gran pochi. E lo dimostra poi il fatto anche del finali con pochissimi italiani. se non i singoli fenomeni. Tornando alla domanda invece che mi avete fatto voi, il nuoto è uno sport ovviamente da singolo, è uno sport molto introspettivo, perché sei solo con te stesso 4 ore, 4 ore e mezza al giorno, quindi diviso in 2 allenamenti, uno la mattina e uno il pomeriggio, con come unico compagno una, o compagna, una riga nera sul fondo. 6 giorni alla settimana e si macinano dai 15 in media, dai 15-16 chilometri al giorno per 6 giorni alla settimana. E quando sei in prossimità anche di gare importanti, anche la domenica bisogna allenarsi. È uno sport, adesso non detto da me, ma è uno sport molto duro, come ce ne sono anche tanti altri, per amor del cielo. Però è uno sport dove si richiede una continuità. Cioè un rigore militare, proprio una disciplina, no? Sì, è bello tosto, e ripeto, è uno sport che ti fa vedere anche molto dentro, quindi sì. È particolare, molto bello perché ti fa star bene con te stesso, esci da, anche dopo aver fatto 16 chilometri esci dall'allenamento distrutto, ma con una sensazione di benessere interiore. Io se voglio essere un'era chi ci ascolta, cari ascoltatori, pensateci cosa vuol dire nuotare in media 100 km a settimana. 100 km a settimana, sì. Prima di dire che ma non con ma una insomma, grande, che non, sport è nuotare. Non con una grande km. Variazione sul lavoro, no? Proprio, quella striscia nera che uno vede per 4 ore al giorno. 100 km. Proviamoci a immaginare. Se posso dire, se mi permettete, la Pellegrini che può anche sembrare magari ad alcuni poco simpatica, insomma un carattere particolare, è una che si fa un mazzo in acqua, fa gli allenamenti dei ragazzi, ma certo, dei maschi. Ma Dario arriva a Federica Pellegrini o a Detti, ma più a Federica, c'è stata questa reazione sui social, arriva anche questo rumore di sottofondo di qualcuno, di qualche invidia, di qualche arriva perché poi Federica tra l'altro è anche attiva sui social, ieri per esempio su Instagram ha consegnato un po' il suo pensiero più significativo, ha detto su 200 stile libero ho chiuso la porta di casa, perché quello è un po' il giardino di casa e direi che ha chiuso la porta nel modo migliore. Arriva ma ci si convive, lei stessa ci convive, nessuno può piacere a tutti. Ecco, diciamo che ben pochi invidiano il mazzo che si fa in piscina, tutti invidiano l'oro o il successo derivante, no? Perché l'invidia poi è così. Ma io dico solo che non chiamiamola più Federica, ormai la divina, perché dopo quello che si è vista a Budapest, ragazzi, io ho visto la cometa di Halley, cioè sicuramente la mia carriera è stata la cometa di Halley, pari solo, vado a chiudere, al bronzo vinto dalla Vezzali a Londra 2012, quando in 36 secondi rimontò 7 stoccate e vinse la medaglia. Cioè 7 stoccate, là si è vista un qualcosa di metafisico, la stessa cosa che si è vista a Budapest. Quindi se la chiamiamo Federica la sminuiamo, la divina. Va bene. Guarda che ci sono gli ascoltatori, c'è Andrea che ci chiama da Udine. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Io chiamavo per una questione, no? Io ho fatto rugby tanti anni a Padova in nazionale e mi trovo che con i miei figli ho le maestre delle scuole elementari che mi chiedono vieni a fare un po' di motoria. Il problema degli sportivi, di ottenere sportivi, è che non c'è più una formazione motoria all'età di base, no? Sì. E quindi se non si introduce e se non si ristabilisce una cultura sportiva c'è l'oretta di movimento di ginnastica, che non è solo l'oretta, è proprio di dotare le strutture scolastiche di ambienti idonei per fare sport, ripristinare i giochi della gioventù, dotare il maestro dello sport e non della rimettere al centro se no non è solo nel nuoto dove c'è un grande sacrificio, ma in tutti gli sport di alto livello, quando arrivi all'alto livello devi fare sacrificio. Ma il problema è che non hai una base sul quale individuare persone che sono in grado di fare sacrificio, perché non fanno più, non ci mancano competenze motorie. Sì, lei dice Andrea, si bisognerebbe... I 10 anni non sanno fare la capriola, come fai dopo che va a fare calcio o rugby? A dare quegli no, ma guardi Andrea, lei ha usato un esempio pratico ma concreto e visibile a tutti, l'idea di non saper fare la capriola, effettivamente è così, insomma, cioè un popolo di obesi propagini degli smartphone, questo è alla fine a furia di non fare nessun tipo di esercizio. No, ma tutto questo poi ha un effetto sulle patologie, sulle malattie croniche, su come si invecchia, questo non c'è dubbio. Però ecco, io volevo sollevare un punto, cioè io ho come l'impressione che dipende anche dalla qualità del livello dei manager che sono alla testa delle diverse federazioni all'interno del comitato olimpico sportivo, nel senso che io non voglio far sempre onore alla mia natura iperpolemica, però c'è effettivamente, ci sono gruppi di dirigenti che insieme a grandi tecnici del settore sanno, sia pure nella ristrettezza delle misure e nel deficit di impianto complessivo che ci ricordava fin dalle scuole il nostro ascoltatore, ottenere risultati avendo una mentalità da manager sportivo. E ci sono molte federazioni, troppe a mio giudizio, se uno va a esaminare la vita del Comitato Olimpico Nazionale, che sono gestite con quel criterio di potere, lasciatemelo dire, che è il motivo per cui poi il CONI mette mano a enormi spese, un'altra cosa, se deve battersi per improbabili Olimpiadi italiane, e però sulle loro vicende interne sta molto più, voglio dire, disattento, ma userei in alcune federazioni altri aggettivi, perché siamo in presenza di robe da codice civile e penale. Ecco, io brutalmente la penso anche un po' così. Ci vorrebbe l'esempio di chi ha la testa di alcune federazioni fa benissimo e meno esempio. Dovrebbe essere più seguito e diffuso. Questa è un po' la mia impressione. Trasferito per osmosi. Però Fioravanti, sull'aspetto che dice il nostro ascoltatore della mancanza della cultura sportiva fin dalle scuole, fin dai più piccoli, è così? Lo nota in Italia? Ma sono d'accordo anche su ciò che ha detto il radioascoltatore. Si nota, e purtroppo è un problema che secondo me dovrebbe essere affrontato in maniera concreta, perché sennò poi veramente si rischia di avere dei ragazzi tecnologicamente avanzati però... ma che non sanno andare in bicicletta senza mani. Esattamente. Anche questo è un esempio molto bello. C'è Daniela che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno. Eccoci, dica Daniela. Beh, ecco, un'osservazione, perché ho sentito mentre parlavate del paragone tra il nuoto, la pallanuoto e l'atletica all'inizio. Sì. E, la mia esperienza è questa, io sono di Roma, un po' viaggiato e adesso mi trovo a Genova da 4 anni. E, devo dire una cosa, che se a Genova mi volessi allenare per l'atletica leggera probabilmente potrei correre lungomare, ma non saprei dove andare. È pur vero che invece di piscine che fanno corsi di nuoto e pallanuoto ce n'è una regolamentare, probabilmente anche per allenamenti di categoria, praticamente in ogni municipio e in ogni piccolo paese della Riviera. Quindi probabilmente forse anche una questione di numeri, impianti. Mi viene da dire. Sì, di numeri, nel senso, se io aggrego, non so, 1000 ragazzi ogni anno, poi alla fine gioco forza, selezione, talento, voglia di mi trovo 10 campioni che vanno peraltro sì. Io per esempio ho frequentato Sori, Bogliasco, Recco, vanno anche in piscina da soli a 10 anni tutti assieme, si trovano lì senza stress nemmeno per i genitori. A Roma, per andarci ad allenare, bisogna andare al Foro Italico, ma chi è che porta il figlio ad allenarsi al Foro Italico? No, chiaro, una fruizione degli impianti molto più semplice aiuta chiaramente. Però vedi che dietro c'è sport. Un giustamente complesso di cose, no? La spiegazione per cui le grandi dittature a un certo punto pianificano a tavolino: vogliamo 8 medaglie di qui a 12 anni in 3 giochi olimpici, e poi è successo davvero, perché i paesi dell'est hanno usato la chimica e ucciso generazioni di giovani per questo. Da Cina però in alcune discipline ha iniziato a fare la stessa cosa 20 anni fa, gli effetti si vedono. Il problema è, bisogna essere dittature per pianificare questo? No, ovviamente no. Però non bisogna neanche rincorrere nel caos anarchico del me ne frego. Che è un po' Stati Uniti c'è una cultura sportiva ben diversa fin da quando si è piccoli, e infatti vincono l'atletica, non so quante medaglie. C'è Lorenzo da Vicenza, buongiorno. Sì, pronto, ciao a tutti. Ho ascoltato con molto interesse, e sicuramente la base, piuttosto che gli impianti, sono un fattore critico. Però io aggiungerei un po' un'estensione all'elogio dei nostri atleti a livello individuale, che stanno veramente tenendo in alto la bandiera. Però osservo anche la povertà dei contenuti di certi giochi di squadra, dove io metterei in discussione il sistema Italia. Mi spiego meglio. Ci sono certi sport dove il rispetto della regola o il portare avanti una cultura vincente sono parte fondamentale per eccellere in quegli sport. E stiamo vivendo, a mio avviso, una crisi di valore sportivo che è un po' un'estensione anche di quello che accade nella società italiana. Cioè, lei, se capisco bene, troppo individualisti. È in crisi il sistema Italia. Nel senso che l'individuo può avere la passione, la determinazione, la disciplina per competere ed eccellere. A livello di squadra ci deve essere un team con la testa. Dal primo uomo all'ultimo uomo che la pensano guardi, lo stesso modo, Lorenzo, no, ma... il rispetto della regola. Lei dà questo esempio, ma tu, Oscar, sai cosa è successo? È straordinario. Siamo con Domenico Fioravanti, grande ex nuotatore, e siamo con il nostro Dario Ricci da Budapest, ma da ascoltatore, ve lo giuro, ci ha chiamato Yuri Kechi, che è con noi. Yuri, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, capite che bella la bellezza di Radio 24. Yuri, stavi ascoltando, immagino, che ci vuoi dire? Guarda, io stavo ascoltando, saluto tutti i vostri ospiti, l'amico Domenico che sento sempre con affetto, ma è perché volevo farvi complimenti per come state trattando l'argomento dello sport e dell'attività anche motoria assente nelle scuole. Per me è molto, diciamo, grave, molto critico. Io lavoro anche con i bambini durante l'anno e il problema della poca motricità, anche aumento di peso per una mancanza di attività motoria c'è, è vero. Io ogni volta alcuni, diciamo, legislatori si riempiono anche la bocca, no? di poter fare qualcosa per migliorare questo, poi in fondo si investono soldi in altri settori, forse mi permetto di dire meno importanti. Quindi ecco, grazie per questa attenzione che rivolgete all'argomento, per me è molto importante. Poi quando si parla di Federica Pellegrini, campioni come lei, insomma, mi si apre il cuore, mi sento fiero di essere italiano, che in questo momento credo sia molto importante. Vedete, ma insomma, no, siamo noi che ringraziamo ci Yuri Kechi, noi ci sforziamo semplicemente di fare il nostro lavoro, che di fronte alle medaglie è forse il problema, ma dietro, al di là del talento, quanto c'è e quanto manca ancora, e purtroppo manca molto, quindi manca il talento risalta ancora di più rispetto a Yuri Kechi. Ne vede di bambini che non fanno le capriole, altro che lì non c'è, altro che anelli, prima degli anelli bisogna saper far bene le capriole, appunto, no? Cominciare da lì, o no? Ma sì, il problema è proprio quello, lo sport deve essere utilizzato per far bene le persone con se stessi e con gli altri. Credo che sia davvero una scelta di un paese, no? Alcuni l'hanno fatto, per esempio, per alcuni aspetti l'hanno fatto, noi non l'abbiamo ancora fatto. Io ho molti amici che credono in questo, il CONI sta lavorando anche se ha una pensione diversa, si parla più di sport e di vertice. Avete fatto un accenno alla federazione, io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Oscar, nel modo più totale, assoluto, finché non ci sarà anche qui una volontà di cambiare qualcosa in quel mondo è molto difficile avere risultati diversi, ma il problema è più dalla base. Noi non possiamo pensare di far iniziare attività solo per far diventare campioni e campionesse. Se sono bravi questi atleti diventeranno, ma noi dobbiamo riuscire a dare la possibilità a questi bambini di star meglio da bambini e poi da adulti, da grandi. Lo sport, questa opportunità, però ci dobbiamo credere, non solo a parole ma con i fatti. Io spero che prima o poi qualcuno lo possa fare. Allora, noi siamo partiti con un campione olimpico, Domenico Fioravanti, abbiamo concluso con due campioni olimpici, devo dire, Fioravanti e Yuri Kechi. Meglio di così non si poteva immaginare questa fine. Esatto, Dario Ricci è a Budapest con la Divina, non vogliamo offenderla chiamandola Federica. che forse rispetto, va tra l'altro premate perché nelle prossime ore mi butterò in vasca anch'io perché c'è la gara giornalisti. La diretta a reti unificate. Esatto. Fido Domenico, Luca Sacchi, anche Yuri Kechi su 50 a pancia larga. A pancia larga, sì. Torneremo con tre medaglie. Oggi avremo il terzo medagliato in questa trasmissione. Va bene. No, noi ringraziamo davvero Domenico Fioravanti, Yuri Kechi che ci ha chiamato e il nostro Dario Ricci. Guarda che cosa c'è, anche momenti di gloria. Momenti di gloria per i campioni. Campioni. È chiaro. Allora, c'è Edmondo D'Arieti che ci chiama, però. Edmondo, c'è spazio anche per lei, eccoci. Grazie, rapidissimo. Allora, visto che siete in conclusione, è già stato detto tutto. Cioè, lei è l'ultimo ascoltatore di 2 anni di me e Oscar, lei capisce. C'è la responsabilità, deve chiudere in maniera epocale. Allora, per dire qualcosa del vocale, volevo ricordare al CONI che ci sono anche sport che stanno per entrare nelle discipline olimpiche. Faccio un esempio, la danza sportiva, in cui le famiglie e gli atleti spesso, come dice Oscar, sostengono per intero il costo di questa cosa. Quindi Rimini è la più grande manifestazione mondiale di danza sportiva, però ne viene dato sempre un risalto molto relativo. Purtroppo, quando girerà il business anche in questi sport, forse allora cose cambieranno. Va bene, Edmondo, con questa sua telefonata la ringraziamo. E con questa meravigliosa musica, con un pensiero allo sport, al talento, al sistema, con l'augurio che lo Stato non ci dia come unica disciplina sportiva in cui mette la sua capacità il organizzativa. Salto del pasto. No, quello del salto mortale di fronte alle tasse, che è l'unica disciplina che ci obbliga. Il tiro della cinghia. Esatto, bravo. Ma detto tutto questo, caro fratello, grazie a te. Mi hai insegnato ogni giorno ciò che i nostri ascoltatori dall'altra parte mi davano anche come nutrimento della testa. Ma no, ma grazie a te Oscar, ma comunque ripeto, siamo qui a Radio 24, rimaniamo e mi sento un po' con questa musica. Però è la musica la musica dei momenti di gloria, quindi va bene, va bene, va bene così. Che dire, io vorrei ringraziare, 7 anni vorrei anche ringraziare, oltre a Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi che rimangono, Peter Bescapè, anche Alessandro Longoni che è passato qui, Miriam Lucchetti è passata qui, Antonella Migliaccio, Viola Bottoni, spero di ricordarli tutti, è difficile di non dimenticare qualcuno, se ho dimenticato qualcuno è solo perché sono un vecchio rincoglionito, e quindi insomma Chiara Compagnoni, l'ultima nostra arrivata, l'ultima e prima. Sì, io ho fatto 7 anni al mattino, adesso mi sposto un po' più in là. Ho capito, ma il mestiere è sempre lo stesso, quello di imparare dagli errori collettivi ciò che si può emendare nei propri per proporlo agli ascoltatori. Insieme possiamo tutti far meglio. Esatto. Dai, allora, buone vacanze. So che Oscar, questa è una ferita, dirti buone vacanze. Buon agosto, va bene così. Buon agosto, va che è meglio. Buon agosto e ci ritroviamo a settembre a questo punto. Un abbraccio a tutti quanti.